Mi laureo come fenomeno, da baraccone. Mi schianto come baracca e suonasso dell'aviazione. Resto integro, disintegro le grane. È meglio un integralista o integrale un integrale. M'han detto che scrivo troppo complesso, ma l'unico complesso che ho è quello del Dio complessato. Mi sento incompreso come un numero complesso. Il mio complesso preferito sta in un file compressato. Compressa IM, tanto finisce. Condoni a condoni, scommessa come il toto. Rapper ignoranti, quelli più di classe sono più dotti che la classe politica in toto. Toto scommessa, con regali ad un povero cristiano. Dottore, mi hanno proclamato dottore. Io laurea con 110 lode. Dottore, neanche nell'immaginazione. Maglietta in faccia alla commissione. Dottore, ogni perbenista qui rode, muore come i figli di Erode. Dottore, all'uni passo per cervellone. Cervello che è rap come passione. Mi definisco un coglionazzo che scrive tanto per e tutto sommato. Sottratto sto prodotto al mercato, diviso per una barra in codice. Vuol dire è morto un civile. Quando parlo sputo perché non sono molto civile, ma lo stesso sul mio codice. Metto rap nella politica e politica nella rap, perché una politica come la santa anche onestamente me la farei. Politicamente la sposerei e poi la farei santa come Raymond sulla casa della rap. Potrei progettarti un sito in Drupal o un apparecchio per soldo muta, perché cambio la muta. Il commercio alla mia lista, investo e guadagno l'8,3% annuo. Altro che il commercialista, io corto perché ho colto il senso dei curatini, che procura un manifesto cretino come Lassini. È Lassini il cretino, non il manifesto sulla procura. Dottore, mi hanno proclamato dottore. Io laurea con 110 lode. Dottore, neanche nell'immaginazione. Maglietta in faccia alla commissione. Dottore, ogni perbenista qui rode, muore come i figli di Erode. Dottore, all'uni passo per cervellone. Cervello che è rap come passione. Faccio sega e la mia sicurezza va a puttane, come quando mi segano all'esame di sicurezza. Io esanime nel senso che ho sei anime. Sopravvivo perché metto la cintura di sicurezza. Oh minchia Tufu, hai scassato con ste cazzo di rime con la stessa parola. Oh ma che cazzo, il mio disco, che cazzo vuoi tu? Sì vabbè, ma hai rotto il cazzo, minchia, sempre uguale. Vabbè, allora me ne vado. Dico, metti il ritornello in fondo, va. C'est la jeunesse de la rime, même sur un carillon. J'ai un flow champion, comme pour les Allemands, Marco Marin. Tragédie comme Racine, tant l'oreille. J'ai étudié Cornell, mais je n'oublie pas mes racines. Dans un pays où la musique n'a pas plus quelque chose à dire. C'est vrai, garçon d'ogué, d'ego trip qui ne sont pas bons à lire. Fuck votre weebling, fuck votre prophète. Je suis un rappeur moujahidine et mon rap me coupe la tête. Je le tiens lié à la terre, mais c'est pas Roland Garros. Non punchline, mais exercice de style Ramon Queneau. I take mon équipe pour conduire mon équipe droit au but. L'Olympique Marseille demi. Je vois beaucoup d'amis qui peu à peu s'éloignent. Ils se sont moqués de moi parce que je viens des montagnes. Italien avec nom français mais pas la grange. J'ai pitrial toute l'année, du lundi au dimanche. Dottore, mi hanno proclamato dottore. Io laurea con 110 lode. Dottore, neanche nell'immaginazione. Maglietta in faccia alla commissione. Dottore, ogni perbenista qui rode, muore come i figli di Erode. Dottore, all'uni passo per cervellone. Cervello che è rap come passione. Dottore. Oh ma, che cazzo aveva detto questo qua in francese? Boh allora. Dottore Carillon, champion. Ma poi che cazzo c'entra Malcolm? Dottore. Boh vabbè, allora, in francese proprio zero io. Dottore. Speriamo che come minimo non m'abbia dissato, va? Oggi è il mio primo giorno. Sono un grande. E 4 anni di studi, 4 di tirocinio e mucchi di rate da pagare mi hanno fatto capire una cosa. Non so un cavolo.